Sono arrivato in questo istante ho posato le buste, ho sentito silenzio anche sul 23, allora ho provato a dire beh, e ci siete in rotta. No, ho chiamato, non c'è nessuno. Mi stavo guardando un po' internet, c'è, manca uno, non so c'è proprio niente. Ma vuoi che Natalino non sia in casa? Lei a quest'ora sta quasi cucinando, stiamo mangiando addirittura. Papà, quando troppo, quando niente, o ci sovramoduliamo l'un l'altro o non vedo un'anima. Sono trovato adesso con la moto, ho fatto una mini spesa, però ero solo con lo smanicato, camicia sottile e smanicato, un caldo già. Si sta bene, oggi era bello andare a Plattamona, ma ho dovuto farmi la spesa anch'io stamattina, la carne. Poi ho fatto anche un po' di spesa al supermercato, perché la carne la compro a parte, la compro a Centrocarne. Ho speso 50 euro di carne stamattina, più di 50, 55 euro. Eia, tu cos'hai Gianni, un pozzetto o la tieni nel normale freezer? No, nel freezer la tengo, Marco, la tengo nel freezer, la faccio a pacchetti, uso con la carta per alimenti, con le buste per alimenti, le metto a una dentro, quando mi servono le tolgo. Bravo, quello è il metodo intelligente, io invece per mandronia la metto tutta assieme, poi mi devo azzuffare con martello e scalpello a staccare i pezzi singoli di carne. No, o la metti in un vassoietto e li metti con la carta trasparente tra uno e l'altro, e metti le fettine tutte quante distese, oppure fai come faccio io, le metto nella busta a una le fettine, quella che mi servono tolgo. Già, sai cos'è? Non siamo molto carnivori in casa, quello è vero. Quindi magari le altre cose sono cose confezionate, non necessitano di essere spezzettate. Poi per mamma è un problema, nonostante le lentiere, dice, ma ho detto faccio sovraccosce di pollo, quelle belle in verde, ma quelle non le posso masticare. Ho detto, ma stiamo scherzando? È pollo, con coltello e forchetta lo fai sminuzzato. E poi c'è le lentiere, cioè non riesco io a parlare con lavorare la testa al muro, si perde solo tempo. E lo sai cos'è Marco? Manco io ne mangio molta di carne, dai. Ogni tanto me la faccio una fettina, ma mangio anche altra roba, mangio verdure, uova, un po' di tutto. Però il cane la mangio ogni giorno, mattina e sera, capito? Eh sì, il cane è un alimento primario, per non dire l'unico, sì, glielo puoi arricchire con un po' di ortaggi, ma in natura non ne mangerebbero nemmeno gli ortaggi, è carnivoro, si ciberebbe il prede vive. Va bene, già, io metto queste due cose in freezer, ho preso i gelati a stecco, la marena, tipo il croccante algi, da tipo però, la versione dei poveri, e poi vedi, degli hamburger surgelati, che in due minuti mi faccio in padella, un po' di salsa rosa, un po' di pane, e ho mangiato, per dire, la notte mi, per fare in fretta. Mangiare è spazzatura, la roba confezionata la devi mai prendere, c'ha sempre conservanti, ma... Vabbè, ma no, allora conservanti non avrebbe senso se poi la surgeli, quello che tiene, poi devo vedere gli ingredienti, e già lo sai com'è qua, io di stare 2 ore a cucinare per mangiarmelo in 2 minuti non esiste proprio, cose piccole posso fare, semplici frittate di uovo e verdure, quelle cose che ci metti anche pochi minuti a prepararle, va bene. E ho chissà che si sciolgono, poi se vuole entrare qualcuno bene, se no vai Marcolino Condo, vai lo vedi che c'è quel cocoma, è sempre l'ascolto, ma non palla, ma è solo quello 7 a te, quello 7 a me non entra, lo trovi già, no, io ho acceso adesso, io ho appena finito di mangiare, ho che non c'era nessuno e ce l'avevo spento. Non è entrato nessuno in casa. Cioè hai già cenato? Lo so che mangio questo. Cioè già cenato alle 7 e già cenato, cacchio. E questa è la merenda per me, il caffè fra poco arriva. Comunque come vedi ognuno ha i suoi orari. Se lui si trova bene a quest'ora a cenare va bene. Io mi trovo meglio alle 11 di notte, quando ho fatto già tutte le cose di casa, che ne so. Riprendete che se no mi si scioglie la roba, dai. Anche io ceno tardi, Marco, però non è sbagliato cenare presto, perché hai tutto il tempo per digerire bene. Invece se ceni tardi te ne vai a letto e non digerisci come devi digerire. Si è spostato Marco già. Hai finito di mangiare? Eia, ho finito adesso, ho acceso e ho sentito Marcolino e gli ho fatto la battuta, capito? Io ho provato a chiamare e non rispondeva nessuno. Poi Marco ha detto, beh, non c'è nessuno. E io ho detto, e se non rispondi, ma te sto tornando appena con la spesa mia in questo momento. L'ho accesa adesso. Perché non c'era neanche lui, non ti ha risposto nessuno. Ma io cosa vuoi? Non è entrato nessuno, io non ho sentito nessuno. Stasera, allora ho spento. Io stavo cantando sino a poco fa. Ero in una stanza che cantavo. La stanza del web, dai. Stavamo cantando, c'era un contest. E poi ho spento e sono venuto qua. Ho capito. Vabbè. Ognuno c'è sui ubi. Io stamattina sono sceso a Platamona, sono sceso. Abbiamo preso un po' di sole. Da solo sono. Che non me l'hai detto che ci voleva. Non me l'hai detto. Sono sceso perché, anzi, sono guardato perché prima mi hanno costretto a prendere la macchina per fare un favore a una persona. E allora, dato che ero lì, gli ho detto alla 50 mia, me ne vado a Platamona un po' a prendere il sole per quelle gocce. E così ho fatto. Bruno non c'era, l'ho telefonato e non rispondia. E allora giù di tu. Mi sono stato un po' lì e poi me ne sono salito. Hai fatto bene col cane, sì, sì. No, da solo rubare io cosa cane. Già sono un anno che non rubo più. E io non posso camminare e non c'è nulla da fare. Lo porta mia moglie. E già lo so. Perché tu mi hai detto che l'altra volta il cane di Mitraga lo stava per morsicare, pensavo che ce l'avessi tu. No, eravamo io e mia moglie, eravamo. Capito. Ce l'aveva mia moglie il cane. E a loro gli piace giocare nella sabbia, a te se gli piace un bel camminare nella sabbia gli piace. Lo so. E cosa vuoi fare? Purtroppo io non posso camminare più di tanto, allora lo tiene mia moglie. Capito? Il cane è il suo, non è il mio. E di casa è nata lì, quando vivi insieme è di casa, non è tuo, suo, mio, cosa avventa? Io dico sempre, quando tu vivi con una persona, quello che è tuo è suo, quello che è suo è tuo. E non è che dici tuo, mio, suo, aggettivi possessivi. Sì, vabbè, io andrei in occhio, lui yugo, però no, a portarlo non ce la faccio, è inutile. Già andare da qui a prendermi la macchina, a me mi causa problemi. C'avevo un dolore stamattina e tu non te lo puoi immaginare. Sì, già me lo posso immaginare, Natalia. Già lo sai, che pure io ho patito. Sì, vabbè, è cosa vuoi ti dire. L'altra volta addirittura stavo frenando col sinistro, perché col destro non ci riuscivo, avevo questo dolore e per poco mi scendono. Guarda, non mi sono messo a piangere per la vergogna, dal dolore. Ci credo. Vabbè, Natalia, se ti fai quel lavoro che ti devono fare, ti basta. Io sono rinato con la gamba, però sono tutta duri nel resto del corpo, poi spalle, braccia, gambe, poi ginocchia, piedi, tutto gatto mi fa di manica, non mi invece so con uncino. Fa trac trac trac il corpo quando mi stirate. Figurati. capito? Ma controllava la famiglia. E il rivestimento? Io non ci ho pensato a telefonarti, capito? Se non sai se c'ero pure tu. E mai cosa? Non faccio pensato proprio a telefonarti, ha giudicato che Bruno non vera. La giù telefonata e non mi rispondia. Ed era dal dottore da voi, a chi da voi mi ha chiamato Zeddu. Come ti ha visto la chiamata, no? E mi ha detto che era dal medico e non si sente bene, non c'è stato per quel motivo. Non è po' di giorni che non ci scende. E sarà dolore, lui soffre di dolori, dolori che a volte non fermano pure, deve stare a letto. E infatti, dice che era dal medico, quindi non c'è senso per quello. Accudiamo Danilo, medico. Se no già scende lui. Ma c'è, te ce n'è la macchina per tavola, se ne è qua oggi vera Rubieno. Valerio, rubare. Davide, rumoroso. Infatti mi sono abusato pure a distendere la gamba, perché mi è durato un bel dolore. Aspetta un attimo che mi stanno telefonando. Ah, bene, bene. Cosa c'è Marco, cosa c'è? Hai fatto tutto, hai bevuto il caffè? No, il caffè dopo, dai, sto ripigliando fiato. Ma ti volevo dire, mi è sfuggito di cosa. Vabbè. Ma sei andato in moto a fare la spesa? Sì. E le buste dove te le vedi? Allora, io posso usare bauletto, poi uno zainetto piccolo che tengo piegato nel bauletto, e sono due, e più la pedana, che la mia è piatta. Ci sta un bustone stracolmo di roba, tipo l'acqua, la sabbia dei gatti e anche altre cose. Quindi se le uso tutte e tre, quindi ho pedana, bauletto e zainetto. Seccano ti seppellisco. Sì, ma tanto non è che sia, cioè, poca roba, quello è piccolino anche come... Non puoi caricare più di tanto. No, l'importante è che se cadi in moto la lasci andare, non che ti avvinghi alla moto come fanno certi. Stringono le gambe, no, anzi le allarga, le fa la cadere sotto di te, che strisci, ma se no ti può fare danni alla gamba. Però fare come ho fatto una volta, sono andato lì a Tedoce a comprare, alla Cobert a comprare l'anguria, ho fatto un po' di spesa, l'ho messa sotto la sella, perché c'avevo sotto la sella c'avevo un bel po' di spazio. Ci stavano due caschi, immagino, due caschi di quelli grandi. Poi l'anguria però non ci stava e l'ho messa davanti. Me ne stavo andando e l'anguria mi stava per cadere, vado a prendere la tela dell'anguria e non mi cade la moto e mi va addosso. Cazzo, non riuscivo a sollevarla, in tre sono andati a sollevarla, perché non riusciva, uno non ci riuscivi, pesava 200 kg. Quale moto? Sento un bip, un break, avanti. Ciao Marco, ciao Gianni, Carlo, questione Sassari. Ciao Carlo. Ah, oggi di rientro, bene, bene, c'è anche Natalino. Ok, Natalino, riprendi che vado a bere. E dove sei Carlo? Dove ti trovi? In quale pezzo di strada? Sono nella vecchia strada che ti porta alla Landringa. Ho iniziato adesso, dopo il medo, diciamo, dai. Ah, stai passando la Landringa? Sì, perché stanno asfaltando sulla 4 con... Landringa? C'è almeno 5-6 chilometri, tutto a senso alternato, una sola corsia. Ho visto in lontananza Pullman e quant'altro. Qua invece è deserto, ci sono solo io. Ho fatto bene, così almeno sta. Quindi arrivo almeno alla Landringa, sì. E qua ancora si scoglie alla Landringa, abbiamo iniziato questa strada. Sono su quel rettilineo lungo che c'è. Poi quando finisce c'è tutta la serie di curvette, poi la discendina, poi si risale. Carlo, in lontananza si sente bene oppure mi senti saturo? No, qua si sento bene, anche forte Gianni. Qua si sente già la saturazione, forse per la vicinanza. Vabbè, per la vicinanza c'è una regolazione, io lo sto provando al massimo a vedere se è saturato. Posizione? Ultima. Ti avevo salutato. Ok. Prima non il passaggio ce l'hai fatto, non ti ho sentito, ma tra un po' dovrei riuscire a tirarti fuori. Ma che stai dicendo, Carlo, a me? No, stavo salutando Natalino, perché Marco mi ha detto che c'era anche lui. Ma non ha parlato, Natalici sì. Gianni, per il controllo, cambio. Chi è? Ciao Gianni Marino, controllo, guardate cortesia di radio. Il radio è bella pimpante, mi è andata sul sacco, sei entrato tutto sparato. Ok, no, mi interessava solo questo, dai, ti ringrazio, a più tardi, ciao, grazie. Ciao, ciao, ci sentiamo. Perché avevo volumato per Carlo, per ascoltare a Carlo bene, e mi sta entrando nella Lecce come è stato. Ciao, comunque, ci sentiamo. Andale, vai, avanti, oh, Marco. Marco lo riprende. Carlo! Sì Gianni, che ti sento, qua è iniziato la serie di curve in discesa, ho lasciato quel bivio di Porto Torres, capito, sto scendendo un pochettino adesso, ma mi sembra forte qua. Anche Marco lo sento molto bene qua in questa zona. Ciao. E sto scendendo con 10 watt, 9 watt. Là. Sì, adesso che mi sono finito sento un pochettino di saturazione. Gianni, ci sei? Sì, c'è Carlo che sta parlando. Come? Sta parlando Carlo, è stato un aghe. Natalino, chiamalo. Natalino, chiamalo. Carlo, mi senti? Ciao Natalino, sì che ti sento qua, sono poi E Carlo, arrivi basso basso, ma ho capito che mi senti, dai. Riprendi Marco. Insomma, alla Landriga arrivi, dai. Come che si diceva? Non arrivi dai nocchi alla Landriga. E già va arriva la Landriga. E io che non sento, capito? Ancora non è la Landriga, non è ancora la Landriga. Ah, è più lontano ancora. E via. Landriga, io ci ero passato 20 anni fa, non mi ricordo nemmeno dov'è. E io, quella è la vecchiaia è Carogna, mi. La vecchia strada di Alghero, quella che manca a Monteore, eccetera. La vecchia strada di Alghero. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, Giuseppe da questa parte. Un controllino per gentilezza in condizioni precarie. Io te lo devo dare. Oh, rinunci. 9:30, buonasera Giuseppe. Qua si fondo scala, Giuseppe. Kappa kappa. In compagnia di chi? C'è Carlo che sta tornando da Alghero, Natalino e Marco Condor, va. Ok, dai, buonasera a tutti. E beh, Natalino, e poi hai risolto il problema. E quale problema? Il problema degli inneschi dell'altro giorno, mannaggia. Bruciato, si è bruciato. Non ho risolto proprio nulla. Lo stadio di amplificazione microfonica è partito. Cavolo, quanto mi dispiace, ecco perché non riuscivi a cavarmi i piedi il giorno. Non è un transistor, è un coso, come cavolo si chiama là in Norabona. Vabbè, comunque non sono i transistor. Il modulatore? No, un integrato. Giuseppe qua a Santiago 6:30, ma questo è uno smitterpirchio, quindi segnano Santiago e meno di tutti gli altri. Qua arriva Santiago 8, Giuseppe, arriva benissimo, è fuori muro di radio. La radio di Calappari che è più infatti, Giuseppe, non venuto a rivare. Kappa, l'importante è sentirsi, poi io ragazzi. Aspetta che c'è Carlo che sta parlando, attenzione Carlo! Adesso sono arrivato alla Landriga dove c'è il passaggio pedonale, quello illuminato. Kappa, ho capito dove sei, dai. Adesso passi dove c'è la chiesa. E lì alla Landriga ti sento bene. Eia, guarda, se arrivo alla Landriga è fatta, non mi serve altro. Prova Giuseppe, se arrivo. Vediamo un po' chi è Marco, hai detto? No, Carlo. Riesci a sentirmi? Passo. Carlo, lo sente Giuseppe? Adesso pio pio, ma non riesco a sentirlo, in mezzo al QRM, capito? Molto basso. Sta uscendo con un antennino, dai. Kappa kappa. Vabbè, comunque, quando ritorni a Sassari sicuramente lo senti anche Marco. Vabbè, andave, dai. Adesso dottore a casa ti riposi un po'. E adesso mi fermo a Freddaniet a fare benzina perché domani devo uscire, c'ho il turno delle 6, domani sono di mattina. E quindi mi fermerò, farò tra un po' un attimo di bianco, poi se ho voglia, se ci siete ancora mi prendo da casa. Ehi, ehi, va bene, dai. Ok, avanti. Niente, dai. Cosa volete che vi dica? Ah, a proposito, ma vero è che il primo maggio ha messo brutto? Ma lo sai che non lo so, ma penso di no, penso di no. Mi sembra di aver sentito che faceva bel tempo. Ma speriamo, non vorrei che mi bagnasse i camper. E intanto già sei dentro, dai, te ne stai dentro se piove, ti guardi la pioggia dai vetri. La pioggia e la TV, mannaggia, però è triste uscire e rimanere dentro. Bello è quando esci e vai a passeggiare. Quello sì. Quello sì Giuseppe, però almeno c'è un riparo, quello che ti voglio dire, se proprio dovessi andare a mare c'è un riparo, te ne vai dentro, c'è a posto. Infatti, poi in questi nuovi, grazie a Dio, già c'è tutto, è come essere a casa. Sì. Cosa c'hai, anche pannelli solari? Pannello solare, doppie batterie dei servizi, frigo con congelatore, bagno con doccia separata, bla bla bla bla bla bla, letto matrimoniale in coda, si dorme meglio lì che a casa. Già va bene, dai, già va bene. Riesci a dormire in camper, sì. Dormo meglio in camper che a casa. Figurati. Invece io non ce l'ho riuscito. C'era un periodo che dove facevo servizio ambulanza, praticamente stavano facendo dei lavori e avevamo trasferito tutti i cavi del telefono, eccetera, eccetera, e non in un camper, però in una roulotte. Beh, lo sai che non ci sono riuscito a dormire, l'ho fatto la notte e non ho dormito nulla. Ti faccio fare un giro col mio e vedrai se dormi. Probabilmente sì Giuseppe, il tuo è all'avanguardia, magari c'ha più comodità, eccetera, capito? Che ne so, mi dava senso di chiuso, boh, non lo so, è una cosa allucinante. Avanti Carlo, dove sei arrivato? Sì Gianni, sono a Predanietta adesso, sono appena passato con Forama, adesso sento anche Giuseppe, buonasera, ben sentito. Niente, io adesso mi fermo a fare benzina e quindi faccio un attimo di bianco. Ciao Natalino, Gianni, Marco e Giuseppe, ci sentiamo dopo. Ehi, ehi, va bene Carlo, dai. Avanti a chi tocca, Marco, vai. Ehi, ehi, adesso vabbè Carlo non fa testo, è forte, è ben oltre il 9, quindi è sul rosso della scala. Va bene. Che dire, sono spaesato un pochino, dai. Era tre giorni che non uscivo di casa, ho già, che non me la sentivo proprio, oggi sono uscito, ero un po', sai, spaesato, proprio nel vero senso della parola. Allampanato. Allampanato. Sì, vabbè, perché ti fa così, se stai sempre a letto, coricato, sdraiato, poi alla fine ti fa così, dimmi a capogiro, ti prende male, capito? Io mi sdraio, sì, dopo pranzo, e faccio la pennichella quando ce la faccio, se ce la faccio, se no devo fare altro, faccio altro, però se ce la faccio la pennichella di un'oretta me la faccio. Ma Marco, se viene qua, già viene quel negro lì che gli dà quella roba, vedrai che gli passa tutto. Marco ha bisogno non di un negro, no, di una bella ragazza bionda con gli occhi chiari, vedrai come si sveglia. E se no quando esci comincia a vedere delle belle ragazze in giro, se no ti viene il capogiro. Oh, se è troppo bella la ragazza può venire anche il capogiro, Sì, vabbè, ma se ti viene per quello ben venga. Non certo perché ti stai sentendo male, meglio che ti venga per una bella ragazza. Cava cava, vabbè, Giuseppe, cosa vuoi fare? Gli occhi sono occhi. E concordo, al 100. Però Natalia diceva, vedere non toccare è una cosa da soffrire. Mi ricordo sempre questa frase che diceva. Aia Natalino, non si dicono quelle cose. Natalino si è messo. Kappa. Giuseppe, come mai oggi sei entrato così sparato, eh? Ma guarda, mi stavo guardando un pochino di televisione, però poi mi stava prendendo male. Ogni volta che accendi televisione, se non è film, sono notizie che ti fanno venire i brividi. Quindi ho detto, meglio cambiare aria. Sono entrato qua nello studio, ho detto, accendo un pochino, vedo un pochino se c'è qualcuno. Giuseppe, io ti dico la verità, film non riesco più a guardare, mi drommo. Non mi piace più vedere i film. Prima era appassionato, ero iscritto addirittura al club del video, c'ho tutte le videocassette di Dario Argento, di Fantuzzi, tutte quelle che fanno ridere, eccetera eccetera. Non sto più guardando un film perché mi addormento. Ma è così già, molte volte è anche un po' la noia che lo fa mi. Invece se per dire guardo Gerry Scuti, lo show dei record, queste cose qua mi piacciono, capito? Sì, proprio così, sì, ma se ascolti un telegiornale oggi, per carità. Mi sa che la gente scende di gabbo, quello che ammazza quello, l'altro che ammazza l'altro, sembra che siano ammazzato gli agnelli, no le persone, già che mi fanno pena gli agnelli, figurati le persone, che coraggio bisogna avere per fare una cosa del genere. No, ma è così, io non so se Marco e qualche telegiornale se l'ascolta, però veramente c'è da uscire di testa. Sì, no, praticamente qualcuno diceva, non so se sia vera, se sia giusta questa statistica, ma c'è più possibilità, dice statisticamente, di essere uccisi da un membro familiare che non da un perfetto sconosciuto per strada. Non so se valga solo in America o anche da noi, però se ci pensi è allucinante. E cosa Marco, che non ho sentito che stavo parlando con la 50 in cucina? Non guardi mai, dopo che finisce Alta Infedeltà, non so se te lo guardi mai, c'è un programma dove ci sono tutti così di assassini che ammazzano la gente eccetera eccetera, che fanno le indagini per tutta la storia. E allora, già avete parlato in due con Natalino, ha detto ma mica sveltomi, ha detto, e allora è sveltissimo, è tipo il pistolero, però lui anziché la pistola c'ha il PTT. Ah, ma quando lo c'ha pure gli becchio la mano, così impara con la bacchetta. Sì, come faceva il maestro Secchi Protto, adesso mi busco una di quelle di quei righelli di nocce, ti giro la mano e a Magnini, uno che lavora all'Enel, che era in classe con me, gli ha fratturato un dito. Ma chi è Massimo? Magnini era in classe con me, quello gli ha girato la mano che ha fratturato un dito. Io lo conosco bene, Massimo Magnini è un amico. Natalì. Via. Allora, non si chiama Righello, si chiama la pestichita, per cortesia. No, lui lo usava anche come Righello, era una vicinghita di notti. Con il cavolo si sfacciava. Ha troncato il dito a Magnini, a Massimo. La becchighetta no, è una sorta di cosa, tipo un pezzo di canna. No, quadrata era ghiccia, di nozze, gatta. Deve essere via Battaruma Crudassa, ghiccio. Era un maestro gatto, guarda, dell'elementare, io me lo ricordo ancora. Eppure io ho giubilato goppi da ghiccio. Così a tutti. È un po' quasi amarichi su quell'affare lì. Certo, e me lo ricordo, era quadrato, c'ha ragione Natale, lo usavano nella lavagna per segnare la roba. Bei tempi. Allora non ne buffonavi, no? Non è che lo potevi denunciare il maestro, no? Cazzo, i rudizi hanno i genitori, pure hai un ciappo quando vivo. Che poi dice, quando torna a casa di del resto. Invece adesso come lo toccano poco a poco i genitori subito a denunciare. Cazzo, che schifo, non siamo buoni a educare Paghissu. Questi ragazzi ne dicono poco ai genitori, se mi attribuì poco a dirgli una cosa insignificante, mi curiano i capriotti, babbo, mi girava il gabbato in vezzo. Però il discorso è che ci riallacciamo a quello che dicevo io poco fa, no? Oramai siamo passati da un estremo all'altro. Infatti, Giuseppe, non ti puoi a Crimia, manca di rispetto a babbo tuo, mi dico, sa di la zia. Sì, sì, ehi, guarda, di babbo buon'anima, bastava solo lo sguardo volte. Nonno era così. E anche babbo era così, per non picchiarti. Bastava lo sguardo solo. E ti si di, secondo come si da baidava. È proprio vero, non siamo buoni a educare nulla noi. Perché cioè noi non vogliamo che i nostri figli subiscano quello che abbiamo subito noi. Capito? Però sbagliamo. Perché non si dà così l'educazione. Lo giappo quando vivo piano, logicamente hanno fallimari, ma cazzo, se una volta va con un giappo babbo e maggior parte di tutto il laboratorio purendi non lo so qui. E giappo quando non è la cintola e dei pantaloni oppure battipanni, ah, o pompa. La cintola è una cosa meravigliosa, però il corpo va dato di fibbia e non di cintola in pelle. Dalla parte della fibbia devi colpire, almeno esce il marchio. E quante volte andate con il marchio a scuola? Ho una prolunga della luce elettrica mia, una bomba che ti lagava nei veri sazzi, nell'anchi. Eri già fatto? Chi su mamma? Sì, già ne abbiamo preso discussione, me lo ricordo, da una volta a me mi ha rotto un dito col bastone, ma mi ha dato un colpo e me l'ha fatturato. Oh, me ne racconto una. Guarda, intorno al 90 e dintorni c'era questa ragazza in Florinas, no? Che dice, quando facevamo incavolare di brutto la madre, dice, mi picchiava col ferro, ma io credevo una bacchettina di ferro, sai, quella magari di alluminio vuoto. Dice, no, dice, hai capito male, col ferro la stiro, me lo tira a schiena, io li bitto, non dico io, ma si la pigliava di punta la picchia. Cioè, è una cosa atroce, mi col ferro da stiro tirato a schiena, anche perché c'è un certo peso, anche che te lo dia di piatto, deve far malissimo. Ci siamo dimenticati di Carlo in Maramobile. Carlo, dove sei? Sono in via Garavetti, ho fatto benzina e sono salito da Santa Maria, diciamo. Sì, apremi un attimo. Dovresti sentirmi forte adesso, Praticamente lo smitter fa due giri completi. Ecco, ma guardate il controllo, grazie. Che c'è stato un break che stava chiedendo un QRK, per cortesia fatelo entrare. Antonio, sei tu? Ah, negativo, fai fuori dalla questa. Ora porto il segnale a notare, per cortesia, grazie. Sotto la ruota, non so chi c'è in questa ruota qua, perché l'ho accesa adesso, sto provando un apparecchio, grazie. La radio è ultima, il segnale 9.30, fa, se lo vuoi da me, io l'ho provato perché sono vicino. Grazie Gianni, contraccambio 9.30 qualcosa. Natalia, da te? E cosa vuoi, lo controllo da me? Si mette le cose dalla Trabassi. È vero, Natali. È vero, a chi? Tu lo sai? A Londra. Chi c'è? Marco anche. Fia, inutile darti il controllo, sempre 9.30 incollato. La modulazione è, oddio, un po' rimbombante, tipo quella di Gianni. Un pochino rimbombante. Non sai, ma... Vabbè, sto già dato il microfono. Ok Marco, dai, contraccambio il tuo rapporto, grazie del segnale che mi hai dato. Tu stai arrivando a 9.25, a picchi di 9.30 quasi. Ok, dai, riprendete. Ma Giuseppe, riprendi tu. Ciao Fra. Riprendo io, però mi sono perso qualche pezzo perché io mi sono allontanato due minuti quando stava parlando Marco. È entrato Franco California a chiedere un segnale, ha chiesto chi c'era, eccetera, eccetera, in rotta. Avanti, salutalo, non so se ti sente. Allora, mi hai detto, già, mi sono perso un passaggio. Franco California. Non lo so se mi sente. Ciao Franco, da questa parte Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, sì, ti contraccambio 5-7 il rapporto di segnale alla mia stazione. mappa. Qui nella mia, però la mia è un po' approssimativa perché io sto scendo con un anteldino e niente, Santiago 8, però la radio è bellissima, Super 5. E questo è il radio, prendo io e rilancio per Natalino, vai Natalino. Sì, K. Ma io me la sto chiudendo che devo fare cosa qua. Vi ascolto comunque e ci sentiamo alle prossime, dai, salutando tutti, anche gli eventuali SWL. Correti per me, dai. Ciao Natali, ci sentiamo alle prossime, buon tutto. Ciao, ciao, ci sentiamo, Natalino, ciao anche a te Carlo, dai. Ci sentiamo dopo, magari se riprendi da casa. Avanti, Marco. Sì, ciao Carlo, io stacco che devo fare una cosa per mamma, ok? E quindi ciao a tutti, non riprendo, credo. Ci sentiamo. Vai Natalino. Vai Franco. Ciao, anch'io sto chiudendo, dai. Franco, avanti. Ciao Marco, ci sentiamo, dai. Vieni avanti Franco. Buonasera, dai, riprendo io, ciao Natalino, lo correti con tutto. E ce la riascolta, ciao anche a Marco, lo correti e ciao anche a Carlo, lo correti e buona carica. Dai, lancio a te Gianni, riprendi tu. Cappa. Salutoni sia a Natalino che a Carlo, dai. Ma che apparecchio stai usando, frate? Ecco, sto utilizzando il K, No, quello di poco fa. Cosa? Il manual. Già va bene, sì. Per me la radio era buonissima, proprio buona. Perfetta. Avanti, e come anche quella di Giuseppe, è ottima la radio. Per Giuseppe arriva 5-7, qua, vabbè. Lui sta pilotando con la Temino, mi stava dicendo. Però cazzo, mezzo casino quella basetta che hanno collegato nel parafango. Che cosa bisogna? Smontarlo il parafango? Sì, mi sa proprio di sì. E Giuseppe, se hai bisogno di una mano, vengo un giorno, ti do una mano io. Lo sai perché già? Perché per sfilarlo, ma giusto per tenerlo lì, hai capito? In maniera da togliere la basetta vecchia e metto la nuova. Sì, non c'è problema. Fammelo sapere, quando lo vuoi fare, lo facciamo. Cazzo, stavo impazzendo, non riuscivo a capire come cacchio l'avevano piazzato, perché da sotto il passaruota niente, dal motore niente, da dentro niente. E che basetta ci vuoi mettere, Giuseppe? Quella per metterci la Turbo 2001? Sì, se riesco a trovarla, sì. Se riesco a trovarla, sì. Se no metto questa che ho a casa, che ha l'attacco a vite, l'antenna. Ce l'ho io la Turbo 2001, te l'ho detto, ne ho due. E la basetta ce l'hai? È completa, tutto. Perché io quella che mi hai dato tu di Turbo? C'ho tutto quanto, basetta, ce ne ho una nuova e una diciamo usata, però già regolata e stazionaria e tutto, già perfetta come regolazione. Andave, magari il giorno quando capita ci mettiamo d'accordo, dai, facciamo entrare Franco adesso. Avanti. Ce l'ho anche io, ce l'ho il 800 già, con la base magnetica, però c'ho quella con la base magnetica grande. Anch'io ce l'ho grande, ma la base magnetica la mia non tiene più di tanto. Quando cammini si stacca. Mi ha graffiato la tettuccia della macchina a capo, mi ha fatto anche mia marcatura piccolina, ma me l'ha fatta. Il tettuccio sono riuscito con la pasta abrasiva a toglierlo, però con le marcature vogliono tirate, se no non ce la fai a toglierlo. E vabbè, pazienza. Adesso ne ho messo un'altra di antenna, ne ho ordinato quella là. Comunque mi Giuseppe, c'è un'antenna che costa per il tetto, che costa sulle 32 euro ed è ultima, è quella che sta usando Franco. Perché non te la prendi quella lì? E quella non è che si veda più di tanto. Oh già, ma io l'avevo presa da coso, da Fusaro l'antenna. E allora il problema qual è? Il problema è che non ha Giovanna da Sanchini. Ah, perché ci dovevi andare col cestello, qualcosa, non puoi salire dal tetto. Sì, posso salire perché c'è l'ingresso, ma il cavo che non so come farlo scendere, non ne rifacciata, no? Lo fai scendere dietro il pluviale, come ho fatto io. L'ho nascosto dietro il pluviale e legato con le fascette. Lo so, però ci vuole il cestello. K. No, io cestello non ne ho usato. Io sono andato da quel piano di sopra, trasformano a fare la gara il cavo. Si rivede tranquillo. Avevano fatto la gara, poi sono sceso giù, ho fatto l'altro piano e poi l'ho fatto vicino a casa, vicino alla finestra mia. A me passa distante dalla finestra, non ci arrivo. Ah, ecco, e allora con un casino e farglielo passare dentro. Sì, farglielo passare dentro, però ci vuole sempre il cestello per fare il foro, per farlo arrivare qui. Ah, ecco, e beh. Ma che piano sei, Giuseppe? Al secondo. E al secondo ci puoi arrivare anche con una scala aerea. Ma al secondo piano con la scala aerea senza cestello, oppure di quelle scale, se conosci qualcuno che ce l'ha una di quelle scale tipo quelle di pompieri, ma bisogna sapere fare perché è pericoloso in alto. E infatti c'è l'elettricista che ce l'ha, è bellissima quella scala che ha, è telescopica, ma è un amore. L'unica è così, Giuseppe, fanno entrare dentro il pluviale, è messo dentro con rugato e fanno entrare dentro il pluviale e poi farlo uscire a livello della tua finestra. Infatti ma piano piano già ci riesco, dai. Vuole potere, diceva mamma. Ah, quello è poco ma sicuro. Quando, guarda, ci vuole più di noi a fare le cose, perché io da volte ci penso tanto per fare le cose, ci penso. Poi lo sai cosa ci vuole? La fai e è fatto io. Lo so, però piano piano, qui devo fare piano piano perché là era diverso. Perché qua sei nuovo arrivato, quindi magari hai paura che magari ti prendano di mira. No, non per quello, perché là era più semplice, là scende, il cavo scendeva dietro in facciata, non si vedeva. Beh. E qua non lo puoi far scendere da dietro. No. Anche il mio scende dietro, è la verità. Però cioè, io ho la fortuna che il pluviale rimane nell'angolo a fianco alla finestra, quindi praticamente basta legare il cavo e poi l'ho legato alla ringhiera della porta finestra e poi ho fatto un buco nel legno e l'ho fatto entrare dentro e l'ho tutto quanto stuccato con lo stucco bianco, non si vede nulla perché la finestra è bianca e non si vede niente. E vedi, invece io il coso, il tubo ce l'ho distante. Quella è la sfiga. Non si possono più mettere i figli a pendolone come si faceva prima, che tutti i gatti devono avere la pendolone, anche quello del televisore. Avanti, fra. Voglio provare il magno già, mi ascolti. Se lo provo anche il magno, dai. Aspetta che lo provo. E già, guarda un po' come va questo. Gianni. Ehi, la strada. Ma mi senti, sì. Basso, boh. Non ho capito. Che ti sentivo basso. E adesso? Ma adesso perché ho alzato il volume, era basso, va. Cappa. Giuseppe, ti piace questo? Questo è il Cobra. Bello è, mi hai preso il soprassalto e mi hai assustato. Questo è un bel apparecchio, Aspetta che devo comprare una cosa. Ecco qua. Così dovrebbe andare meglio, dai, prova, 1, 2, 3, 4, poi posso alzare anche il volume del microfono. Questo è un signor apparecchio, è ricercato molto questo qua, i camioni specialmente lo cercano. Bello, ha una radio che è prepotente. Giuseppe, Kentu. Lo so, adesso io ho qualcosina in ballo, vediamo se va in porto, non lo so, è tutta una questione di pazienza, di saper aspettare. Infatti non bisogna farsi prendere la fretta, questo apparecchio qui l'ho pagato forte, questo costa 450 euro, però è un bel apparecchio. Infatti, le cose buone si pagano, non c'è niente da fare. Non puoi pretendere casse di spendere 1000 euro e avere una 500 quando casse con 400.000 euro puoi girare in Ferrari, casse ed è un abisso, quindi è inutile case, come molta gente fanno paragoni, case ma la mia, dico come mai esce così, perché devi spendere per avere la cosa buona. Allora, questo qua nuovo costava 720 euro, l'ho preso a seconda mano, ma è come se fosse nuovo, non c'è un graffio. Figurati, dammi due minuti già che mi sposto un secondo. Sì, avanti fra. Stavo dicendo, là, Giuseppe, dove stavo volando? Sassari 2. Ah, Sassari 2, vicino a Bruno. Eia, sì. Non lo so dove esattamente, però è Sassari 2. Lì a Sassari 2, o di fronte, o vicino, non lo so dove sia. Però Sassari 2. Io sapevo dove abitava prima e poi si è trasferito. Allora, ma sta facendo un qualche antennina interno? Sì, sì, sì, c'è un'antennina. Ah, se l'ha presa l'antenna, però non l'ha mai piazzata. C'è una come la tua ci voleva e andava alla grande, perché quella è una bella zona, prende tutta la zona del mare, c'ha libero tutta la zona di Sassari, bella in piano. Un'antenna di queste, questa è una cazzata questa antenna. Ma scappagappa. Oh, quindi tante volte non costano nulla, ma non me l'ho visto quella che ho preso io, che ho preso in Germania. Quella lì è una bomba, va bene da tutte le parti. Quella è una bella antenna, va alla grande. Non è lunga fra, almeno 1,60 m, non è lunga come l'altra, poi è leggera leggera, è fino, lo stile è fino. Tanto a me di mettere grosse potenze, non me ne ha futti nuda. Esco col baracchino normale, tanto va bene, va bene così. Il magno non ce l'hai più in macchina, l'hai tolto. Cosa? Ha detto il magno non ce l'hai più. Sì che ce l'ho, il magno non lo vendo. Il magno l'ha già pagato 500 euro. Ma dico, ma ce l'hai in stazione base? Sì, no, lo porto su, quando finisco lo porto a casa. Beh. E ogni volta mi tocca staccare e fare, vabbè, non me ne ha futti nulla. Molte volte la attacchi tutto e poi non c'è nessuno, quello che ti dà fastidio, sai, drulli, attacchi della roba. Non hai fatto, io l'ho tolto già. Te l'ho tolto? Sì, va. Vabbè, solo che lo uso poco, mi pare che in macchina ne metto un altro, che lui me lo porta a casa fisso e ci metto un altro apparato normale, là. Ah, ci avrei messo Superstar io. Anche Superstar si posso mettere, tanto la grandezza è la stessa grandezza del magno. Infatti. Il Cobra non ce l'hai più. Cosa? Il Cobra. E perché con che cosa sta uscendo adesso, secondo te? No, il Cobra l'altro, ne avevi due Cobra. L'altro Cobra l'avevo dato a Tonino, poi non lo so a che fine ha fatto. Non lo so, mi pare che l'ha venduto. Quello era bello, vero? Ed estetica, ma come usciva non mi piaceva. Non mi piaceva come usciva. Era proprio normale, normale. Ho capito. Era bella l'estetica, perché sembrava un HF. Io ho il 60x48. Oh, io quegli apparecchi li ho abbandonati da tanto, perché praticamente ce l'avevo il 48, quello tutto modificato e cose. Ma pigliava splatter, sì che lo usavo in macchina andava benissimo, non bene, benissimo, mi sentivo da tutte le parti, tu pensa che da Porto Torres parlavo con l'Anghelo io. Però lo porto a casa e prendeva splatter da tutta andare, non si poteva tenere in casa. Però io l'ho modificato, il modulatore, scheda a colo, tutto quanto, ce l'ho qua, non lo sto usando. L'ho venduto a un camionista di Urbia che veniva da noi a portarci la roba e mi ha detto io vendila a me, me l'ho fatto sentire, cazzo che bello, me lo vendi, e ho detto sì, ma me lo paghi, ma no, se te lo vado me lo mira 450 euro come l'ho pagato io l'avevo pagato 4,50 questo. Ma quelli costano così, anche fuori. Ma ci aveva tutto, 120 canali, ci aveva doppio modulatore, bip secco, aveva tutte le cose, i così illuminati, poi c'aveva sopra i disegni adesivi, Nuovo Kitty. Vabbè, facciamo un ricordo, quello c'è una bici. Voglioni. Vai Giuseppe. Ma che ti ho parlato? O è Magnelli? Sicuramente. A te la mal di stomaco oggi, va. Ho mangiato quei bastoncini di pesce Findus. Ne ho mangiato troppo perché erano fritti, non lo so, mi hanno dato un mal di stomaco. Non gli ho digerito, un mal di stomaco allucinante. La roba fritta, fra, è meglio evitarla. Quando io posso la evito. Ne metto appena appena di olio, quando arrossisco la carne ne metto appena appena di olio, infatti fa molto fumo, ma non me ne affutti nulla, però almeno non ti fa male, capito? Quando la fai fritta la roba è sempre pesante, capito? L'olio è pesante, specialmente se usi olio di oliva. L'olio di oliva è più pesante dell'altro. E ma poi ho mangiato anche quei. Ho mangiato tutto, ne ho mangiato un bel, forse sono anche quelli. Io sono là un po' che non mangio pesce, proprio pesce, vabbè, sono vicini di quelli Findus che stai dicendo tu, ne ho mangiati anche da poco, però proprio pesce pesce. Sono da un bel che non li mangio. Ma no, anzi, bella mia, a Pasqua l'ho mangiato, ho mangiato l'orato, però di solito non ne compro io pesce. Io mangio più carne che pesce. Vabbè, mi hanno fatto male quei bastoncini. Ce l'avevo sullo stomaco, guarda, non riuscivo a digerirli. Quando è così lo sai cosa devi fare? Ti bevi una tazza di latte, non freddo però, latte temperatura ambiente, e ti va di bassa subito, immediatamente ti fa passare il bruciore. Ma non era bruciore, proprio mal di stomaco allucinante. E allora per quello lì c'è il Diger, oppure o prendi Diger oppure c'è il Malox. C'avevo sicuramente, non l'ho digerito e ce l'avevo sullo stomaco, capito? Mi sono fatto un tè e mi è passato, un tè caldo. Io c'era un periodo che soffrivo di queste cose, poi quando ho eliminato i fritti, le cose fritte, non ho più avuto nulla, ma sono dovuto a un bel che non ho più bruciore di stomaco, prima mi veniva anche bruciuri, anche se bevevo un bicchiere di birra, come bevevo la birra era fuoco, fuoco che mettevo dentro. Ho eliminato i fritti, fra i fritti sono a casa, ci piacevano molto le patatine fritte, i calamari, tutte queste cose qua, purtroppo a me piacciono perché mi piacciono un bel, però purtroppo se non fanno bene bisogna mangiarli ogni tanto. Sicuramente roba fritta non la devo mangiare io. I calamari se me ne dai mi piacciono, però pesce non è che mi incascia assare un pesce. Il calamari che viene fresco, arrosto e Le sardine sono buone, se la voglio fatte all'aperto e così sono buone. Ma fritti, io ne ho mangiato un po' di quei bastoncini fritti, ma le va a fumare. A me l'altro giorno un amico che è andato a pescare con le reti mi ha portato 5 mugini enormi di chi si mangia a velo, c'erano stati 2 chili in uno. Oh, mamma mia, li ho regalati, fra, perché io non ne mangio pesce, è più forte di me. Mi piacciono come pesce, lui. Cosa, fra? Perché i mugini non mi piacciono come pesce. No? No, i mugini no. Sì, ma neanche si io ristano quelli che fanno le feste a Rosto, poco sono buoni. Non mi fido a mangiarli, capito? Ma anche io sono così, perché li ho visti a Portotose mangiandosi la foglia, la chissà usa. Eravamo con la mia ex moglie, eravamo fidanzati, siamo andati a farci una passeggiata al porto, avevamo visto i cugini mangiando e poi eravamo invitati, io ero invitato a casa della mamma, siamo andati a casa sua e cosa ci ha fatto da mangiare i cugini? Io ho detto no signor Giovas, mi scusi ma non ne mangio. E perché? E no, perché non sto bene, io oggi ho trovato scuse e non avevo mangiato né io né Liliana, nessuno dei due. mangia tutte le parti, per carità, pesce schifoso, eh. Anche la spigola mia è così, la ricciola. Anche la salpa, un altro pesce porcaccione, via, mangia di tutto. La salpa mangia erba. Non mi piace. Mangia erba marina. Lo sai che a Valghero l'ho visto pescare le salpe con un'erba marina rotonda, la mettevano nell'amo e la arrotondata, invece che essere piatta l'erba, era rotonda. La mettevano nell'amo e ci stava giusta giusta. Lanciavano e se prendeva certe salpe belle, bella passeggiata col mare, mosso e coso, li pigliavano da lì e si lasciava le fesse sopra. Sì, con l'erba marina di quella rotonda, che dice che si mangia fritta, sì. Lo sai che noi in pescheria la vendevamo l'erba marina da mangiare? Ho capito già, si nutre di quella roba lì. Ma la vendevamo, si mangia pure, c'è un'erba marina che si mangia, è quella arrotondata proprio, si mangia fritta. A me già non mi viene, devo mettere un po' di pesce, vai la salva, le muggini e poi manco la spigola mangio. La spigola una volta un mio collega, non mi accontento, ne ha preso una da 15 kg, era in barca però, l'ha presa, l'ha portata su, l'ha aperta per pulirla, adesso la pulisco in mare così almeno non toglie sapore quando la lavo, l'ha aperta e la via l'usura di Brento, non sai cosa ha fatto, se l'ha venduta a tranci, a chili, se l'ha venduta a tutte e non l'ha mangiata. Per carità, di culo con la magnata, via, pesce porcaccione, ma attesa, no, l'orata già è buona, mi l'orata, sarago, le mormore, a chi la griglia non è buona, fatta la livornese, via, le triglie, sì, ma non è che ci vado matto, le mangio, però non ci vado matto. Io ho mangiato anche la carpa e ho un amico che va a pescare al Cuga e praticamente mi ha telefonato e ha detto già le vuoi tre carpe di quelle grandi, saranno da 3 o 4 kg l'una, e usami i vostri, io non ne mangio pesce di fiume, già a merda che ti dimenti, ti dico come farle, me la fate mettere sotto sale tutta la notte, fate a tranci e poi me la fate fare come il baccalà. Ma non sai che anche la buona, vai a baccalà. Che la fai fare che è buona, ma c'è un po' di spine, raga. No, questa era grande, le spine erano grosse, detto io vi tranquillamente, capito? E anche la razza è così, tutto quanto pieno di spine, però è buona, se la fai l'agrodolce, la razza, prima la scotti un po', li togli quella pelle che c'ha e poi la fai l'agrodolce, ma ti direi che li dindi. Vediamo un pochettino se è rientrato Giuseppe. Sì che ci sono, però oggi come oggi mangiare pesce no, di qualsiasi tipo no, a meno che non sia d'allevamento. Con tutta la carne che stanno mangiando, con questi naufragi e compagnia bella, a casa è meglio niente. Io ho pensato la stessa roba, Gesù, lo sai. Io sto prendendo saraghi e le orate, quelle di allevamento, quelle di coso, di alghero. Ma anche quelle di allevamento gli danno i bucali da mangiare, gli danno farine animali, tutta roba pacaridai. Vabbè, a me mi ha detto l'amico che lavora un allevamento a Stintino di orate, mi ha detto che gli danno i bucali da mangiare. Ma non lo so già, non lo so, perché ho visto che quelle che allevano giù ad Alghero sono controllate. Sì, ma se tu li vedi solo con la sacca bianca, ho visto tutta quella roba di mangime, quello che mangia le mangime. E invece, però quelle di Alghero sono nella rete, quindi praticamente possono mangiare anche plancton, roba che c'è nel mare, capito? E magari se li capita vicino alla rete anche qualche corpo di persona, si mangia anche quello. Ah, quello è sicuro. E una volta noi siamo andati in barca e siamo andati proprio a fianco alla rete dove ci sono gli allevamenti delle orate, ma c'era un pesce di bigliavi, non pesce di prima, però come ti posso dire, le sarraine di quelle grosse, però c'è una profondità di 100 metri, 150 metri, capito? Siamo andati anche a 300 metri, abbiamo preso le pizzone, ma chi si sono mani a vero? Io non ne avevo mai conosciuto, mai visto di pizzone. Lo so, lo so. Oggi ti sto dicendo che, perlomeno, per come la vedo io, mangiare pesce per me è un po' un problema. Sì, si mangiano, sì, lo trovano mangiato il corpo, se ci sta un po' di giorno ce l'ha trovato tutto mangiato dai pesci, si mangiano gli uchi, tutto quanto. Poi ci sono pesci grossi che ammosso uno si invadono, Qui Franco, ma c'è pesce fra, non è che ho trovato qualche pesce scuro, no? Che magari ha mangiato qualche carne di niedone. Franco si è allontanato, ma te lo immagini? E si mangiano la carne di quelli di colore, bovaracci. e diventano scuri anche loro. E chissà quanti voi, e guarda quelle barcone che ha affondato, e perché tu pensi che abbiano recuperati tutti? Oh yeah. E muoiono bene, poi si ributtano a mare, quando vedono che la barca sta per affondare, buttano la gente a mare, capito? Li buttano loro stessi. Eia, eia, ti sto dicendo che è peggio di un cimitero quel pezzo di Mediterraneo. Oia, poveracci. E pagano i fior di quattrini per fare questi viaggi della speranza, pagano fior di quattrini. E un biglietto d'aereo costa un terzo di quello che pagano. Ma c'è ignoranza, non lo so perché fanno così. E l'aereo magari quando sbarcano possono essere controllati, invece praticamente lì quando sbarcano, se non vengono visti da qualcuno, riescono a farla franca. Ma la vedo dura, anzi adesso no, che stanno entrando le belle giornate, e invece di vederla dura ne vedremo delle belle. Questi ci stanno inondando di gente, cazzo tu. Ehi, Giuseppe, sta diventando una cosa incontrollabile proprio. Lì ci bisogna metterci le navi, quando li vedono sbarcare farli tornare indietro. E cosa devi fare? Rifarli tornare da dove sono venuti, perché non è possibile che stanno sempre arrastando, alla fine ci buttano fuori a noi. Già stanno facendo una prepotenza che qua a Sassari il corso è tutto pieno di questi qua, di questi nigeriani che spacciano prostituzione, e ogni tanto zaffara, le polizia, carabinieri fanno rettate, eccetera. Non si può più passare al corso, non si può più passare, prima andavamo a vedere, non vanno più in chivi, non si può passare, è tutto pieno di negri. Sì, quella zona è diventata zona loro, non c'è niente da fare. Però poi il discorso di questi è che quando si sparge la voce che qua in Italia, bene o male, senza far nulla ti dazzini di dinà, e lì è stato il coso che ha fatto scoccare la scintilla. Allora, una volta ho visto carabinieri, polizia, tre o quattro pattuglie con le sirene girando lì praticamente da Porta Sant'Antonio verso il corso, dove all'inizio proprio, e stavano caricando a forza una ragazza, e questo ragazzo che era bello massiccio, bello piazzato, gli ha messo le mani addosso e l'ha liberata. Lei stava gridando, la stavano caricando a forza in una macchina questi neri, li hanno arrestati, e a uno gli è caduto il telefono, lascio stare il telefono, entra in macchina, il carabinieri Buzzi, la buccia in macchina, Zirani Bussani, capito? Stavano rapendo una ragazza. Sì, l'avevo sentito. E lì ormai, secondo me, se non intervengono decisamente, ma la vedo difficile che riescano a mettere di nuovo ordine lì. È un casino, se ne sono tutti scappati da lì, perché dice che se andavano la biancheria li rubavano i pantaloni, li rubavano tutto, sai quelle case sono basse, li rubavano tutto. Sì, ma a parte quello, ormai non ci puoi più passare, meglio evitare, soprattutto in via La Marmora, lì è chi vi è micidiale. Se Marini Sentinelle, tu li vedi all'uscita dei vicoli, appoggiati al muro, oppure fuori dei bar, sembrano sentinelle che stanno controllando la zona, lì. Eia. Stiamo finendo, e poi sono prepotenti, capito? Si girano contro la polizia, contro i carabinieri, non in affutti nuda, si girano come se non contasse nulla le forze dell'ordine, non ne frega nulla. La cosa che mi dà più fastidio è che al paese loro non possono bere perché non possono fumare perché è la loro religione, non possono. Cazzo, venivi in occhi soccotti, strappati, se li vedi fumando la mattina sera birra a gogo. E dillo a me. Allora, una volta ci ha telefonato lo zio di mia moglie, che praticamente c'era un ferro in campagna che sbucava a terra e lo voleva abbattere con questa mazzetta. ha sbagliato, si è preso la gamba, ha detto che c'aveva tutta la gamba gonfia, tanto siamo andati lì, c'aveva la gamba, Giuseppe, un palloncino ce l'ha presente, si vedeva la trasparenza della pelle. E te cosa hai fatto? Se si viene salato un colpo di mazza, cosa, l'abbiamo portato a pronto soccorso. E sai com'è, lì devi aspettare, cavolo, tutta, ce l'avamo ore e ore. E a un certo punto arrivano questi due di colore, uno gridando col dito mezzo staccato tenuto dalla pelle, e questo qua che lo accompagnava a voci, fatelo entrare, aspetta il tuo turno, gli hanno detto, non è una cosa grave, c'è un'urgenza qua, aspetta quando, e c'era il coso, un bel paziente, e la guardia giurata ha detto, non dovete fare chiasso, qua c'è gente che sta male, e questo qui gli ha detto che gli rompeva la faccia, si usciva fuori che gli rompeva la faccia, questa guardia giurata, guarda, ha avuto la pazienza, Giuseppe, che io non l'avrei avuto, aveva alzato le mani in chivi. Beh, fatto sta che questo qua a un certo punto si alza, quello col dito mezzo staccato, e io ero seduto nella sala d'aspetto, ho visto questo ragazzo che di colpo, volevo stava accadendo, mi sono alzato di colpo, vado a tenerlo, oi Giuseppe, mai l'avessi fatto, mi ha vomitato tutto il vino addosso, tutto pieno di vino, aveva bevuto minimo 3 litri di vino, c'era un infermiere, mi hanno tutto pulito, cavolo, guarda, ma avevano la faccia in terra. Eia, già lo so, però se tu vai a casa loro, se te ne tagliano subito la testa se lo sai a quello che dicono loro. E allora, ma qua farò quello che voglio, l'ho capito. Ma a parte quello, sì che si imbriaga niente, interessante che non rompa la scatola agli altri, ma il fatto che sono prepotenti, capito? Hanno una prepotenza addosso, allucinante. Vabbè, io adesso ti saluto, Giuseppe, devo portare giù il cane, questo che è venuto a avvisarmi, mi sta toccando con la zappa per portarlo, ma te l'immagini. Andavi già, adesso chiudo anch'io e vado fuori a dare. Parli con Muro? Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti. Ehi, Giuseppe, stammi bene, buona cena, dai, quando la fai. Ciao Franco, se ci sei, ciao a tutti gli amici che sono all'ascolto. Ciao, io non so che stavi parlando a metà, perché secondo me parli con Muro, ma comunque sia, salutami tutti.